Abbiamo deciso questo perché appunto nell'ambito anche delle attività che ci caratterizzano come cooperativa, quindi la distribuzione di cibo del territorio, di cibo biologico, con sfuso, quindi cerchiamo anche noi nella nostra attività quotidiana di ridurre l'impatto climatico delle nostre attività, quindi dei nostri consumi, avevamo aderito a questo percorso che ci sembrava coerente anche con quello che facciamo, quindi cercare un obiettivo anche ambizioso che condividevamo e condividiamo appunto tutti i giorni della nostra attività quotidiana come cooperativa. Appunto, quello che poi è successo e che abbiamo visto nelle ultime settimane, in particolare ovviamente mi riferisco ai fatti del Don Bosco, del Parco Don Bosco, che tra l'altro è molto vicino anche al nostro emporio, quindi essendo un'attività anche territoriale l'abbiamo visto da vicino, ci sono stati diversi soci e nostre socie che partecipano alle attività del Parco Don Bosco. Abbiamo visto una contrapposizione forte tra quello che sono gli obiettivi appunto di Bologna Missione Clima, al quale avevamo iniziato a partecipare come percorso, e quello che stava succedendo lì, appunto proprio davanti a noi. È per questo che abbiamo scelto di uscire, innanzitutto come una presa di posizione nostra, della nostra cooperativa, e perché, come dire, vedeva appunto una partecipazione, un coinvolgimento di molti nostri soci e socie. E poi, in seconda battuta, per sottolineare il contrasto che ci sembra di vedere con quello che è successo verso i manifestanti, quindi verso le persone che presidiavano il parco. Appunto, la loro azione ci sembra che sia molto rivolta proprio a uno dei passaggi di Bologna Missione Clima, quindi la tutela del verde, anche nella tutela del verde, la valorizzazione dei parchi urbani, no? E quindi insomma, vedere le scene di violenza che si sono viste nei video che sono girati diffusamente ci ha fatto aprire gli occhi ancora di più, e soprattutto con questa azione miriamo a far conoscere, insomma, in giro la cittadinanza sempre di più il contrasto di queste cose e spingere sempre più persone e infine speriamo anche l'amministrazione a riprendere quel percorso che è scritto bene in Bologna Missione Clima e anche in tutti i documenti che girano intorno a questo obiettivo. Vorremmo con questa azione anche coinvolgere altre realtà, stiamo cercando di farlo, altre realtà che aderiscono a questo percorso, appunto proprio con l'obiettivo di rendere visibile questo contrasto e cercare anche di direzionare le scelte che può fare l'amministrazione, cercando di cambiare quello che già sta succedendo al Parco Don Bosco e insomma le iniziative che ci sono state in quel contesto. In un documento voi citate proprio i passaggi dei documenti sui quali ravvisate delle incoerenze rispetto a quello che accade, ma il comune ha sempre rivendicato questi progetti, non solo quello delle scuole ma anche quello del tram, in chiave ecologica, dicendo ad esempio che il tram è sicuramente un mezzo ecologico, le nuove scuole BESTA saranno più efficienti dal punto di vista energetico e gli alberi verranno ripiantumati. Voi non siete d'accordo su questa filosofia? Più che nello specifico dei diversi progetti, comunque noi abbiamo sottolineato che ci sono appunto obiettivamente anche delle iniziative importanti prese in quest'ambito, quindi per esempio la città 30 e il cercare di diminuire il traffico veicolare nella città ci sembrano degli obiettivi in linea con questo. È chiaro poi che sta in un'amministrazione lungimirante ed in una visione di lungo periodo che speriamo ci sia nell'amministrazione pubblica, conciliare i diversi interessi che ci sono in campo, per cui se indubbiamente il tram va in questa direzione, così come l'aumento delle ciclabili, la cercare di diminuire la presenza delle auto in città, insomma è chiaro che questo obiettivo va coniugato con la valorizzazione e comunque la tutela del verde che c'è in città nella maniera migliore possibile. Appunto, quello che abbiamo visto al Parco Don Bosco davanti a noi ci sembra che non rispetti questo necessario equilibrio che ci deve essere tra questi aspetti. Poi chiaramente all'interno di quello che vogliamo sottolineare è che anche all'interno di Missione Clima ci sono degli obiettivi che riguardano a varie realtà a diversi livelli, quindi a partire anche da quello che facciamo noi, quindi la valorizzazione delle attività che fanno agricoltura contadina, agricoltura sul territorio, che cercano di ridurre gli sprechi, sono molto collegate anche a questo, ecco. Quindi l'obiettivo stesso di quel programma ci sembra che preveda una serie di anelli che devono tenersi insieme per raggiungere quell'obiettivo, cioè è proprio citato che il percorso che porta alla città neutrale deve essere un percorso lungo con una serie di obiettivi che vanno tenuti in considerazione e anche una cultura che pensiamo si debba creare in città e che tiene insieme tutte queste cose. Quindi ci sembra che l'utilizzo della, oltretutto l'utilizzo di metodi violenti per liberare un parco e non invece la valorizzazione di un dialogo che porti al guardare con molta attenzione i bisogni dei cittadini, che è quello che si sta facendo notare, siano contrari agli obiettivi stessi di quel percorso.